saluti circolari a tutti, Roberto, Giuseppe, Mario, ci sentiamo magari alle prossime. Roberto, magari se ce la faccio passo a te, ok? Ciao, correti immediato per me, ciao a tutti. Sì, riprendo io, ciao Tommaso, va bene, grazie, non sono questo, se vuoi bene non c'è problema, buon tutto e buona giornata, avanti Mario e poi fa girare. Ciao Giavattro, ci sentiamo tutte le prossime, dai. Buon corretti e buona carica, alle prossime, vai Giuseppe. Sì, grazie Mario. Ciao Salvatore, buon QRT, buona carica e buona serata. Dai, ci sentiamo alle prossime quando coincide. E riprendi tu Roberto. Sì, allora vabbè, io diciamo di macchine già sono abbastanza informato, non per falsa modestia. Quel progetto lì l'ha fatto Bango, non so se l'avete mai sentito nominare, è uno dei più grandi progettisti al mondo. È lo stesso progettista che ha progettato la Multipla, rivoluzionaria per i percetti versi, e poi è passato la BMW, ha preso la BMW e ha ricostruito il marchio BMW, ha fatto tutte le serie 5, serie 3 le ha riprogettate lui, qualcuno l'ha criticato a morire, però è un grandissimo progettista. E quando ha fatto il coupé l'hanno ammirato in tutte le parti del mondo, l'hanno messo, non vorrei dire, la fesseria anche nel Museo di Arte Moderna di New York, mi sembra che ci sia proprio il Fiat Coupé, talmente è innovativo come macchina. C'è un sistema rivoluzionario, il cofano, infatti non si chiama cofano soltanto, si chiama cofango, perché fa anche da parafango, è tutto un corpo, cofano e parafango, se ce l'hai presente Mario, ha detto bene, l'hanno fatto 1008, l'hanno fatto 2000 aspirato, 2000 turbo, poi l'ultimo che è uscito era 2000 5 cilindri 20 valvole, che era una bomba, faceva 250 km orari, più di 200 cavalli aveva. Però io stavo confondendo perché avevo sentito di macchine impostori che diciamo che potevano essere valutate nel tempo, perché anche quel modello che ho detto io, chi ce l'ha se lo tiene ben caro, Ci mancherebbe, ormai stiamo tutto rivalutando le macchine e le moto d'epoca verranno, col tempo sono sempre più rivalutate. Ragazza, e così, no, anche a me mi piaceva, infatti io quando mi sono pigliato la macchina, la 55, siccome ci lavorava un amico mio in Fiat, mi ha detto perché non ti prendi quella lì, visto che tu sei sempre a raggio, quella è una macchina che dà soddisfazioni, cammina. E io ho detto, che macchina è? La coupé, la nuova, l'ultima uscita, dice, è una bomba, fa 250 km orari. Aggiungi, vabbè. Però, capito, erano due porte, era un po' scomoda e niente. Va bene, no, per certi versi è una bella macchina, l'unico problema era un po' il consumo esorbitante, diciamo, era dovuto alle prestazioni. Vabbè, ma chi prende la macchina lì? C'era un amico mio vicino di casa, c'era, lo vedo tutti i giorni, ma ne ho visto tantissime, ne ho fatto tantissime in officina, diciamo una macchina da maturi, non è macchina da tutti i giorni, nel senso per farti il giretto tutti i giorni, però è una bella macchina, c'è un'ottima tenuta di strada. E tu c'hai anche la 75, o sbaglio Mario, così in America c'è, cos'è? No, io ho la Quispark, è 2000 Quispark. Quella è l'ultima con la contrazione posteriore, anche quella è una bella macchinetta, no? Non scherza. Infatti quella lì è quella che ti stavo dicendo, che c'è da rifare il pezzettino sotto il digicristallo, è da rivedere, da. Ma speriamo che mio figlio si piglia la patente, almeno così lo mette in circolazione. Ciao, e tu Giuseppe che macchina hai? Ma io ho un appunto, esattamente il penultimo modello, Robè, è quella che ha i fari tondi davanti. Ma appunto quei fari tondi? Non quella con i fari, cioè, hanno fatto i due tipi di punto, cioè quella che ha i fari grandi davanti, la mia è quella che ha i tre fari, quelli tondi piccolini. Seconda versione. Sì, la seconda serie, diciamo. Vabbè, anche se non si chiama proprio seconda serie, comunque, diciamo, entro la rotata prima del 2003, quella lì. La rotata nove del 2003 è stata fatta quella macchina. Un attimo. Grazie. quelle vogliono lì di punto, Robby. Macchinetta tranquilla, dai, senza nessuna pretesa, cinque porte, tranquilli, ma giusto la comodità per la famiglia, diciamo che va bene. Consuma poco, l'altro giorno gli ho fatto così un controllo, siamo intorno ai 18, 19 che riesco a fargli fare al litro. Ecco. Sì, no, va benissimo, io ho avuto un appunto prima serie, è stato più che bene, macchina della categoria è ancora numero uno, anche se adesso c'è la grande punto, è stata sostituita, però è una macchina totalmente diversa da quel tipo di macchina, perché all'epoca c'erano quelle dimensioni di macchina, adesso si sta sempre un po' più allargando la dimensione media di una macchina media. Avanti Massimiliano, buonasera, mi hai sentito. Capa Roger, dai, buonasera a tutta la ruota, così non me ne dimentico neanche io, vai, avanti per voi. Bianco, E cazzo male, è capito al volo. Guarda Pierpaolo, magari Pierpaolo sei allora. Che Pierpaolo, Antonio sono, buonasera a tutti. Ciao a tu, buonasera, vai Mario. Ciao a tu. Ma vabbè, dall'altro parte Tomma stai parlando, cazzo che brutto che sei. Perché sono brutto? Cazzo, piccolino piccolino, la radio è brutta, cuffa. Cuffa, non mi hanno mai detto niente con questo apparecchio. Sei un po' più basso del normale, dai, comunque già è chiara la radio 5, Santiago quasi 9 di segnale, però ti ho sentito meglio in altre occasioni, altro. Caffa, forse dovrei attivare il coso, professore. Caffa, no, sto usando Multicom dalla Intec. Multicom, ma sta bene a base? Fiato. Sì, è un Multicom, ma il Multicom è la stazione a base, mica è un veicolare, cosa c'è? No, il veicolare è questo qua. Questo è quello digitale. Questo qua è il 3230. Ah vabbè, non lo conosco allora. No, io c'ho il Multicom, però il 497 è stazione base. Ah, ma non va male, dai. Non mi hanno detto niente, ha detto che andava sempre bene. No, ma tu non pensare male, cioè, non detto male quando non è comprensibile, brutto. La radio è chiara, 5, niente a dire, però non è una radio eccezionale, sufficientemente buona, dai. E poi ti ho ascoltato in migliori occasioni, molto meglio. Ma a te ti piace quello che uso sempre, l'Intec 550, vabbè, quello lì già è tutto un altro paio di mani. Anche questa va bene, per farla andare un pochino, dai. Sì, non ti preoccupare, non c'è problema. E capo Roger. E lui? Buonasera a tutti comunque, grazie dei saluti, non ci sono problemi. Buonasera a todos circolares, così non mi dimentico di nessuno, buonasera circolari, cambia, è bello aperto. Cazzo mi, ma come da molto che non la sentivo questa radio, mamma mia, ha detto che la sera era in lutto, qualche cosa è successo a rimane, ha detto che è un po' lo strano, troppo tranquillo, mi che oggi è tornato a svegliare il cane che dormiva. No, Robè, lo sai che ho cambiato mestiere? Cioè, cosa stai combinando? Ho aperto una agenzia funebre. Ah, così è. Come mai ieri è tutta un'altra genere di modulazione? Qua ci sono 16 apparati, bisogna farli girare. Bisogna farli girare. Fai girare quel tipo di apparato e questi li tieni spenti oppure li fai girare in orari che non ve ne scimo. Va bene, faremo così. Allora, risalutoni circolari che la riascoltiamo le prossime. Ciao, ciao a tutti. Ma che non c'è da fare? Sta chiedendo? Signori, io adesso interrompo che mi sa che è ora di mangiare la pappa. Saluto di nuovo a tutti, spero di non dimenticarmi nessuno, per però Antonio, Massimiliano, Giuseppe, poi Buc, mi pare non ci sa, forse c'è Franchetto, si è rientrato, quelli da parte mia. Ciao ciao, buona giornata per domani, se non avremo modo di sentirci. Ciao ciao di nuovo. Ciao Robè, ci sentiamo presto, buon RT e buon tutto, ciao. Ciao Robè, dai, buona cenetta. Io sto preparando un sughetto di quelli che ti lecchi ci vedrai. Buonasera, buon tutto, avanti Mario. Buonasera, buon tutto, di tutte le prossime. Non ho capito chi è che sta andando via, però non fa niente. Alla prossima. Vai, vabbè. C'è quello che sta andando via Mario, comunque. Buonasera, ciao, ciao a tutti di nuovo. Ciao Roberto, buon QRT, dai, ce la risolviamo nei prossimi mesi. Ciao ciao. Vai Arturo, bombolo. Niente da fare, dai. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito, dai. Visto che non ti hanno rilanciato, te lo rilancio io. E ti aspetta il freddo, dai. Sì, grazie Massimiliano. Ben sentito anche tu. Non sento più Bombolo e Pierpaolo, non so se siano ancora qui in frequenza. Rilancio subito Falchetto. Avanti Falchetto. Saluto i belli a tutti, dai, no, non c'è problema. Saluto il generale a tutti. Allora mi sa che mi pigiano. Mi torniamo a rilanciare un sacco di volte, perché non ci dici? No, ero pure. Cappagatta, va bene, allora buon fiso, buon tutto, perché? E ce la risentiamo alle migliori. Salutoni, qui Panchetto chiude le trasmissioni, dai, ce la riascoltiamo tra le migliori. Ciao ciao a tutti quanti alla ruota, ciao. Bene, Massimiliano. Si tratta il brecco e avanti. Sono amico, non so se mi costi, io sono un po' precario qua in questo apparecchio qua, non so se sto arrivando chiaro e riesco a scandire bene quello che dico. Sì, avanti, chi sei? Mario, tu hai copiato, riprendi tu se riesci a copiare bene l'amico. Il capo era Zebra, però non ho capito da dove sto modulando. Avanti Zebra! Io ti ascolto bene quando non c'è il QRM, quando c'è il QRM ti copre. Però non ho copiato da dove stai modulando, zona. Che sei BM l'ho capito, ma sei con un portatile. Però in che zona sì? Manca appagata. Giuseppe non ci sentiva di più vicino di me. È vero, perché lui è zona sacrocuore, diciamo. Hai copiato Giuseppe? Sì, cappa, io lo copiavo anche poco fa Mario, ma non sono riuscito a copiare bene il suo nome, ecco perché te l'ho passato, per vedere se tu riuscivi a tirarlo fuori meglio di me. Perché io ho le orecchie pelose. Cappa, Mario, lui diciamo che è un tiro di schioppo qui da casa, vai, avanti l'amico. Al basso. Cappa, dai, un secondo solo che forse deve rientrare Massimiliano. Massimiliano, riprendi tu. Cappa, dai, no, io non lo sento per niente, dai. Ho fatto un attimino l'importante per dirvi che è pronto la cena qua, dai, vi lascio al vostro QSO, sono entrato per i saluti, dai. Se coincide, se ci siete, riprendo dopo cena, se no buonanotte a tutti e ce la riascoltiamo alle migliori. Ritenetevi tutti salutati, ciao ciao. Ciao Similia, buona carica, buon tutto, alle prossime. Vai, vela. Ciao Similia, ciao, ce la riascoltiamo. Ciao Massimilia, buona carica e buon tutto, ce la riascoltiamo presto, dai, avanti l'amico con il portatile in macchina, su. Cassa, dai, io qua con gli amici stranamente non mi ascoltano, sicuramente in recensione va bene, questo è un apparecchio qua, ma di uscita non esce molto bene, va a fuggare, ci dobbiamo accontentare a questo punto, io sono un Milan 48, non so se... Cappa, dai, qui sta arrivando un 925 di Santiago e una radio buonissima di 5. Cappa, dai, dici tranquillamente. Grazie, dai, avanti per la 1. No, io è negativo per me, non lo sento, Negativo per me, non so se lui ascolta me, comunque non lo ascolto. Cappa, Pierpa, lui ti copia alla grande. Sto uscendo con un portatile ed è in macchina, cambio. Cappa, l'ho sentito in un'altra occasione migliore, Cappa, Pierpa, dai, adesso ha staccato un attimino perché doveva fare delle commissioni. Sono tutti più bassi, sì, a parte Pierpaolo come si chiama? Giuseppe, Falchetto, non ci sono problemi perché è vicino, però sono tutti più bassi, Gianni e Luca sono il segnale più basso della normale. Gianni, prova a controllo tu, non ti arriva a te. Prova la... C'è lo stesso, guarda un po', 1, 2, 3, prova, vai. 9,